Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Che mi racconti? Ah, non molto. Ero qui al supermercato a comprare dei piselli surgelati o al limite dei fagioli. Ne vado pazzo. Ma stai bene? Sì, perché sto bene, certo. Non lo so, sembra che ti faccia male qualcosa. Non più del solito. A te come va? Come sempre, vivo la vita locca. È chiaro. Che altro avrei potuto aspettarmi? Allora, ti va di andare un po' su di giri e di sentire dei bei vecchi dischi, eh? Ah, cavolo. È un luogo galeotto per fare incontri finalizzati o casuali a un benessere reciproco, il supermercato? Questa è la domanda oggi, semplicemente questa. Voi signore che mi ascoltate sul far del soffritto, siete esperte di frequentazioni supermercati? Ho una visione molto arcaica, molto ancien régime, comunque di quelle che sono le quotidiane transumanze femminili, però mi viene da pensare che in realtà il supermercato è il luogo principe degli incontri. Voi direte, sei arretrato, figuriamoci, oggi esistono dei siti specializzati in cui le persone che vogliono fare incontri finalizzati a qualunque tipo di attività, dalla più fosca e promiscua ammucchiata fino a semplicemente conoscere una persona perché non ha voglia di scambiare idee e pensieri. Perché dobbiamo perdere tempo a andare a cercare dei luoghi fisici di incontro? Provate ad andare oggi in uno dei luoghi d'aperitivo delle città in cui le persone si incontrano. C'è una massa informe di persone con la musica a tutto volume, con un gran caldo, tutti con il bicchierino di plastica in mano o di vetro nei rari casi in cui siano locali leggermente a livello superiore. Ma è difficile di fare incontri, ci vanno già le compagnie, ci hanno già gli incontri predeterminati. Tre amiche col fidanzato hanno un'amica single, la portano fuori e viene casualmente un altro sfigatello la fargli conoscere. Questo è l'incontro. Ma il supermercato no, il supermercato è un'altra cosa. Nel supermercato esiste una sorta di distribuzione dei ruoli che fa sì che l'uomo single possa dimostrarsi probabilmente poco esperto nella ricerca e nella scelta del prodotto e possa chiedere casualmente informazioni alla signora che in realtà è per elezione la persona esperta in quel luogo lì. Beh, cosa accade nei supermercati? Vi è mai capitato di fare incontri nei supermercati? In questo caso era Californication, erano due ex che si ritrovano tanto bene al supermercato facendo la spesa, già nel carrello ci sono cibare, sono entrambi liberi, hanno davanti tutta la serata, possono fare la spesa assieme, consumarla assieme. Poi da cosa nasce cosa? Sembra strano, singolare, ma mi piacciono le soluzioni vintage rispetto ai problemi che vengono tecnologicamente risolti oggi dalla social condivisione. E quindi vi racconto questa mattina di un'iniziativa di un signore che ha deciso di rilanciare i supermercati come luoghi di incontro. Il mio è più grosso di qui. Come dici, scusa? Il mio cetriolo è più grosso. Certi vegetali sanno essere veramente sensuali, non trovo? No. I vegetali sono sensitivi. Semmai la gente è sensuale. Giusto, sensuale. Proprio come dicevo. A proposito, io mi chiamo Eric Stratton. Potter, per gli amici. Io mi chiamo Marion. Per gli amici, signora Warmer. Ma guarda, anche il nostro lettore si chiama Warmer. Ma che coincidenza. Io ho un marito che è rettore proprio qui a Faber. Questo era Animal House, la scena mitologica del fraintendimento del supermercato come luogo galeotto di incontri hot. Lo studente va al supermercato, si mette di fronte al bancone dei cetrioli, vede una signora avvenente, piacente, che anche lei sta facendo la spesa, mentre lei prende in mano un cetriolo. Anche lui lo prende e dice: il mio è più grosso. La signora lo guarda e dice: scusi, che sta dicendo? Sto parlando di cetriolo. E in quel momento la fulminazione è la moglie del suo rettore, quindi mal gliene incorrerà o gliene incorrerà benissimo. Non è questo che intendo, non è questo il tipo di simbologia che potrebbe incentivare gli incontri nei supermercati, ma ben altra cosa. 800 24 00 24, fatemi sapere se esistono luoghi alternativi per incontrarsi rispetto a quelli virtuali, rispetto a quelli deputati, quelli che tutti conoscono nelle città come luogo di acchiappo. Roberto Della Notte, buongiorno. Buongiorno. Allora, Roberto Lanotte ha inventato la spesa dei single. La spesa dei single è la modellizzazione attraverso un format di questa idea che al supermercato possono avvenire incontri per le persone che in realtà non sono poi così propense a andare nei luoghi deputati, in quelli in cui c'è il cartello sopra. Qui è il posto dove la gente che è sola cerca compagnia. Vuoi i siti specializzati, vuoi i bar degli aperitivi, vuoi le palestre, vuoi le scuole di tango e via dicendo. Come hai messo a punto questo tipo di idea? Dunque, c'è da fare una piccola parentesi. Io mi occupo un po' del mondo single da 13 anni. Sei un singologo praticamente, singologo, come si dice? Qualcosa del genere. E in questi 13 anni comunque ho visto che mancava un'iniziativa che riuscisse a coinvolgere i single, aiutarli a socializzare, ma che non fosse nei soliti luoghi comuni, come è stato detto poc'anzi, che sono appunto i locali notturni, i locali serali, gli aperitivi, le palestre, i posti dove la gente va per acchiappare. Quindi si sa, una si iscrive a una milonga, è chiaro che vai lì perché pensi che sì, ballare è una gran bella cosa, ma altre cose così. Usciamo con degli amici, andiamo a prendere un aperitivo e stai lì tutti pronti a vedere col cronometro in mano quanto tempo durerà prima che qualcuno mi attacca a discorso. È scontato. Esattamente. Quindi, considerando che in Italia i single sono tantissimi e... Quanti sono? C'hai una stima, visto che è il tuo core business? Ma in questi mesi ho letto statistiche di ogni genere. C'è chi parla di 8, 10, 15 milioni. E quindi sia che si parta da 8 milioni o quanto io abbia visto le ultime che citano 15 milioni, direi comunque che siamo veramente tanti in questo universo e solo una piccola percentuale effettivamente frequenta le iniziative, le feste preconfezionate per fare nuove amicizie. Quindi la festa è il luogo, cioè una festa è quello che invita un po' di amici, di amiche, sapendo che quei due o tre potrebbero accoppiarsi fra di loro praticamente. Sì, esattamente, oppure le altre iniziative nate per facilitare la socializzazione. Ecco, tu invece cosa ti sei inventato questa ultima? Mi sembra che ieri c'è stata l'inaugurazione di questa spesa dei single. Ieri è stata, sì, diciamo, la prima puntata di questa iniziativa che è appena nata e diciamo che promette di estendersi su tutta la nazione in più punti vendita, anche se già ad oggi il numero non è piccolo, perché parliamo già di 72 punti vendita. Ecco, spiega come funziona. Allora, in un supermercato cosa è organizzato perché i single possano in qualche maniera individuarsi tra di loro o rendersi disponibili al mondo? Ok, allora, ho organizzato la cosa più semplice che esista al mondo. Una persona può andare al supermercato, fare la spesa, è l'unico modo per riconoscere, farsi riconoscere da altri single che hanno voglia di socializzare, è quello di mettere un fiocchetto rosso sul proprio carrello. In questo modo il single dichiara quanto detto. Ma diciamo l'apposizione del fiocco rosso equivale a una richiesta di disponibilità? Perché se io adesso andassi al supermercato con mio figlio a fare la spesa e vedo una persona avvenente o simpatica o interessante col fiocco rosso, posso dire buongiorno signorina, permette che le offra un caffè, come succedeva negli anni 50, o se non ho anch'io il fiocchetto rosso lo stammo a distanza? Beh, il fiocco rosso è una setta solo per loro. Sì, beh, è chiaro che se una persona comunque si è reso disponibile a nuove conoscenze, anche chi non ha il fiocco rosso può approfittare della situazione che si è creata. Ora, alla fine il fiocco rosso serve un po' ad aiutare a rompere il ghiaccio tra le persone, poi c'è quello che lo mette, poi c'è la persona un po' più timida che fa da spettatore, quindi non mette inizialmente il fiocco rosso, però ci auguriamo che nel breve tempo possibile tutte le persone che hanno realmente voglia di incontrare... Lo nasconde nella sacchetta della baguette, lo tira fuori solo se vede qualcuno che gli interessa. Esattamente, quindi questo è il concetto fondamentale. E chiaramente non avviene in tutti i punti vendita, proprio perché abbiamo dovuto selezionare dei punti vendita, proprio come si fa con gli eventi. Ma tu hai dovuto avvertire i supermercati, oggi parte questa iniziativa, ci saranno delle persone col fiocco, in qualche maniera devono saperlo o può avvenire indifferentemente? Dunque, bisogna presentarsi chiaramente nelle giornate in cui si sa che esiste questa iniziativa. Noi abbiamo stabilito che è una specie di flash mob, cioè tutti sanno che il giorno, il posto è quello, tutti i giovedì. Tutti i giovedì, quindi il giovedì già possiamo dire che è il giorno che si può andare col fiocco rosso sul carrello dal dopo ufficio in avanti. Quindi il punto vendita diventa social dalle 17:30 alla chiusura tutti i giovedì. Sì, perché se uno ci va la mattina è sfigato. Adesso onestamente alle 8 di mattina col fiocco rosso, ma chi ti guarda? Esatto, dovevamo chiaramente dare un orario che poi, diciamo, avrei considerato i tempi utili, ci si conosce, ci si parla, si va a prendere un aperitivo e se si vuole può cominciare anche la serata. Fermo un attimo, Stefano, buongiorno. Buongiorno da Verona. Lei è un esperto? No, io sono sposato, però diciamo che sono quello che fa la spesa, sempre. E quindi, di conseguenza? Le tecniche, io le vedo, basta osservare le donne. Si vede subito la donna che non è contenta di fare la spesa, tu passi vicino, gli fai una semplice battuta, se la vedi ad esempio indecisa su scegliere qualsiasi cosa. Ma no, sui cetrioli come in John Belushi? No, sui biscotti, su magari delle minestre, su piedi di pasta. E lei fa l'esperto, dice: guardi, conosco, questa è fatta con la trafila di bronzo. Ma basta una battuta, lo vedi, basta che gli dici: guardi, prenda questa che è buona. A me non interessa poi avere contatti. Prove, lei è, diciamo, un sociologo, analizza il campione e vede che funziona. E vedo che funziona. Mai di sabato pomeriggio, troppa gente. E poi sabato ci sono i figli. Fermo un attimo, Stefano, lei è indispensabile a questa trasmissione. Resti in linea perché mandiamo un attimo le informazioni del traffico, poi lei dispenserà i 100 consigli per single che vanno al supermercato, perché lei, in maniera del tutto disinteressata, visto che lei è sposato, però per una sua curiosità di tipo antropologico-sociologico ha messo a punto. Quindi preparatevi, tra poco i consigli che funzionano, ne farà tesoro anche il nostro Roberto della Notte, inventore della spesa dei single. Melog, cronache meridiane. E la pasta ce l'ho già e non la devo comprare. Quel formaggio francese mi sconquassa le spese, ci dovrò rinunciare. C'è la fila, la cassa e la voglia mi passa. Non ho voglia ad aspettare qui, il carrello è pesante, troppo. E mi sono anche rotta. Ma chi è quello lì? Con le cosce come copertoni. Quello lì, vicino al banco dei peperoni. Io lo devo conoscere assolutamente. O mi scoppia la mente, poi non vivo più. Se mi invento qualcosa, un'idea brillante, ce ne sono sempre tante che mi tirano su. È antica la questione, Giamina acchiappa al supermercato, quindi c'è una predisposizione, c'è una sorta di fisiologica e umorale pregnanza potenziale da parte di chi va al supermercato. Perché? Perché le funzioni gastriche vanno allo stesso piano di quelle, diciamo, di tipo relazionale. I succhi gastrici entrano in azione in vista delle vivande esposte e probabilmente anche altre funzioni ormonali entrano in azione. Comunque ci eravamo fermati un attimo, visto che l'argomento oggi è la spesa dei single, è tecnica di diciamo socializzazione etnogastronomica inventata da Roberto La Notte, che si occupa appunto dell'iniziativa La spesa dei single. Ma avevamo al telefono un importante contributo, abbiamo colto al volo l'ascoltatore Stefano, che ha messo a punto le 100 tecniche per conoscere e acchiappare al supermercato. Le mettevo a punto, adesso no. No, ma non voglio mettere in guai con sua moglie. Certo, è roba prima che si sposasse, però se le ricorderà, ce ne dice qualcun'altra. Allora, ad esempio, guarda, le faccio un esempio molto semplice. Io vado in un piccolo supermercato nel mio paese a volte, e c'è una signora, sempre molto seria, molto, molto scontrosa. È accaduto una settimana scorsa che aveva un cagnolino in mano, stava mettendo la spesa sul tappeto, aveva un piccolo cestino. Beh, ma perché sono fatto così io? Io ho sollevato il cestino, l'ho aiutata praticamente senza perché si piegasse, l'ho ritrovata altre due o tre volte. Sempre piegata. Ed era una persona diversa con me. ma avrà incrociato centinaia di volte. Quindi un gesto galante gratuito, va bene. Bisogna imparare a osservare le persone. Guardi, una cosa, mi scusi Stefano, scrive un ascoltatore che, diciamo, l'area del supermercato privilegiata per l'acchiappo dove c'è il cibo per cani e gatti, è vero? È vero, c'è cani e gatti, frutta e verdura. Uno bisogna far finta che c'è il gattino, c'è il mio tesoro, do questo bocconcino ciappi. E lei davvero, sì. Bisogna osservare le persone. Fa la cacchina profumata, in quel momento scatta l'amore. Sì, bisogna imparare a osservare. Noi non siamo più capaci di osservare le persone. Adesso, nei tempi, diciamo, non sospetti in cui non era sposato, le è mai capitato poi di, insieme alla borsa della spesa, portare a casa anche qualcos'altro? No. Sì. Sì. Sì, in media, mi è accaduto. Se l'è accaduto, quindi funziona, il metodo funziona. Funziona, gentilezza, cordialità, osservare le persone e non farsi trovare impreparati a un sorriso o a una domanda che può fare l'altra persona. Vabbè, quello ormai bisogna sempre millantare. Cioè, se la domanda mi chiedono è meglio lo sgrassante al limone o lo sgrassante all'aceto, e non saprei dire, però mi invento, magari dico vanno bene tutti e due, dipende dal tipo di grasso. Ingrid, buongiorno. Buongiorno a lei Nicoletti. Una mia esperienza ha premesso che sono felicissimamente coniugata. Ma perché mettete sempre avanti? A me non me ne importa nulla, onestamente. No, io lo dico perché. Sì, ma non, già, è, che io, non è che sono il Papa. Cioè, per me gli ascoltatori possono travisare. Ma sì, ma detto, scusi, questo. Ingrid, no, io dico, prima cosa, excusatio non petita, vuol dire che lei c'ha la coda di paglia. Come detto, no, questo, fatti suoi. Sposata o non sposata, che vuol dire? Andare al supermercato? No, una persona... non è il supermercato, perché il supermercato è uno dei luoghi, diciamo, in cui è possibile individuare certe tipologie di persone. Ma data la mia esperienza, hai visto e considerato che sono costantemente in viaggio, in spostamento in auto, sì, da sola, ho potuto verificare che un altro luogo all'interno del quale comunque è possibile cogliere la predisposizione della fattispecie maschile a socializzare nei confronti del sesso femminile sono le aree di servizio. È interessante. Interessante. Anche perché sono tutti uomini in viaggio, quindi sono lontani gli eventuali... eventuali... Trovare una donna in viaggio è, diciamo, una cosa meno frequente. E dov'è che viene sedotta lei? Accanto a quel tunnel dove si passa per forza per andare alle casse, fra, diciamo, i giocarelli di plastica... I famosi coglioni di mulo pepati che esistono solo nei carrelli. Al banco del bar, piuttosto che mentre si sta parcheggiando. Addirittura anni addietro mi è capitata una cosa veramente buffa, di cui rido sempre, perché in autostrada sono stata affiancata, al che dico, era un tratto di autostrada che conosco bene, dico, voglio capire che cosa vuole questo personaggio, sì. Mi sono parcheggiata vicino. Lei è folle, comunque uno che ti affianca in autostrada, no. Io chiamo il 113. L'auto. Sì, ma io chiamo 113. La vicina, dico, desidera, aveva chiaramente spostato la fede, dico, senta, prima di tutto rimetta la fede al dito e poi veda di rigare dritto, perché insomma gli approcci in autostrada forse non funzionano, deve sempre capire chi è l'interlocutore. Oddio, gli approcci in autostrada sono passibili di arresto, se a me uno mi... Ammesso che fossi uomo o donna, uno mi fa segnali e mi dice di accostare, sono un poliziotto, chiamo il 113. Cioè, io penserei due volte prima di fermarmi su una piazzola quando uno. Ma non ero in una situazione in cui potevano esserci rischi e pericoli. Poi sì, voglio sì, dire, ero all'interno del mio abitacolo, chiusa. I migliori squartamenti di donne romantiche vengono fatti proprio da signori impeccabili, che sono dei grandi seduttori molto gentili. Però sa, bisogna sempre vedere chi c'è dall'altra certo, parte. Certo, bisogna rischiare. Lei comunque, in quanto anche felicemente, tenacemente sposata, ha chiesto di accostare la persona. Questo gioca senz'altro a favore della sua apertura mentale. Allora, Roberto della Notte, iniziativa è la spesa di single.it. Le è venuto in mente qualcosa rispetto a, diciamo, i suoi piani da quello che hanno detto i nostri ascoltatori? Ah, diciamo che condivido pienamente quello che è stato detto dall'ascoltatore veronese, in quanto bisogna osservare bene le persone, che attualmente poco si fa. E sulle piazzole autostradali, si è mai fatto qualche idea che si dovrebbe organizzare anche lì qualcosa di simile? Ma a me, se penso alla piazzola autostradale... Non le ispira? No, poi vabbè, area di servizio o piazzola in autostrada, giusto per intenderci. Beh, l'area di servizio, diciamo, è come fosse un bar, un piccolo mini market, quindi ritorna funzionale la sua equazione. Grazie Roberto Lanotte, grazie ascoltatore. Peccato, c'era Emanuele che lavora nei supermercati, ne aveva dei belli da dire, ma daremo a lui un'altra occasione. Il tempo è quello che è.